Questo è alcol puro 2010. E pigliatelo. Lo vedo dagli occhi. Vattimo da quel delitto passionale, l'origine infanticidio, in questura sono pratiche ordinarie. Sembrerebbe merda che sta rap, no. Leggo la pagina nera nel giornale e vedo reportage del TG sulla scena del crimine. Tutte bianche sagome di gesso di sangue, rivisti avvocati in TV sulle sciune. Si passa dai sondaggi dei talk show alle urne. Sei quello che sei, lo vedo dagli occhi. Io battezzate Chierichetta il vesco, io sei viziato dai ministri del tuo dio. E pensare che in quella sacrestia ci sono stato anch'io. Un altro capo sull'altare della sodomia, un altro pasto sul banco della psichiatria, un altro seme sul terreno della pedofilia. Mentre che tracolla ed è macabra follia, lividi occhi neri, lacrime sepolte nel cuscino di una mamma che protegge il suo bambino. Inosservato ormai passano le grida al vicino, rendendosi così complice di questo abominio. Corpo senza vita e senza terra, la colpa a cui la danno all'indulto di Mastella. Extracomunitario in cielo via qua, movente eredità, il figlio uccide ma la verità suicida. Prende per tu switch, naso sempre media. Cazzate di riflesso nella casa degli specchi. Quello che sei io lo vedo dagli occhi. Uccido in tutti moda, la verità suicida. Prende per tu switch, naso sempre media. Cazzate di riflesso nella casa degli specchi. Quello che sei io lo vedo dagli occhi. Coccio che casca da un metro d'altezza, la tua maschera tocca per terra, guarda come si spezza. Imbocco lo sguardo mentre sta parlando, gesticola in botto sta raccontando. Dagli occhi dietro, ti leggo dentro, come un diario segreto senza lucchetto. 2010, teste mozzate sul banco delle prove, avvocate i giorni da ring. Mentre si lecca il sangue vittima le dalle unghie, spinge un'altra favola, la mela non si avvelena. E Alice cerca il coniglio per cucinarselo per cena. Mamma mia, paura quanto mi tocchi, se mamma c'ha bambini in bocca come gli orchi. Double face lancia la ma butta sempre a male, dal primo al sesto TG nazionale. La bico non fa il mestiere, il pornatore si riempie di viagra per l'esibizione. E io doppio check al banco, chiuso dentro un baraccio. Senti quanto parla sto stronzo a fianco, un commento del cazzo la volge. Per ogni cosa successa resta una voce che piange. Una la verità suicida. Prende per tu switch, naso sempre media. Cazzate di riflesso nella casa degli specchi. Quello che sei io lo vedo dagli occhi. Uccido di moda, la verità suicida. Prende per tu switch, naso sempre media. Cazzate di riflesso nella casa degli specchi. Quello che sei io lo vedo dagli occhi. Leggo il giornale, mo la mente si fa fragile. Scendono lacrime mentre sfoglio pagine. Non vi è certezza quando scazza l'indagine. Bugio, verità e sottile fottuto margine. Sono fatti di cronaca, dati, pace, sacconti, fatti, c'è solo retorica. Non c'entra un cazzo la politica, la situazione è critica. L'umanità è malata cronica, nel suolo sopra i corpi tinte di rosso profondo. Vittime dello stesso sangue che li ha messi al mondo. Corpo rimane fermo, non vedrà un nuovo giorno. Biglietto per l'inferno senza ritorno. Nel college si uccide a colpi di mitra. L'arteria recisa, una prostituta uccisa. Sangue scorraffiotti per mano della divisa. Spacca rotella e carcere affisa. Vicini preda ad una cruda follia omicida. Strage di persone per pecca di invidia. Lacrime diventano oro chi è remita. Funerali dei propri cari venduti ai media. Scattone Ferraro, rose basse e romano. Un Chierichetto importunato da servi del Vaticano. Un pianto di troppo, mamma perde la calma. Brava persona, no, brutto karma. La verità suicida. Prende per tu switch, naso sempre media. Cazzate di riflesso nella casa degli specchi. Quello che sei io lo vedo dagli occhi.